comincia a far freddo. Comincia a far freddo e un ragazzino straniero che, poveraccio, chiede le 1000 lire agli automobilisti al semaforo fa sempre più pena. È sporco, è macciato e indossa soltanto un paio di pantalonacci stracciati e una vecchia camicia jean che non lo protegge certo dal clima di quest'autunno che pure fino a ieri era così soleggiato. Qualche mese fa, in piena estate, si presentava congestionato dal caldo e avvolto in una specie di pesante pastrano militare, ma non è il caso di chiedersi perché non se lo metta addosso. È abbastanza ovvio che non è stato lui a scegliere quel modo di suscitare la nostra compassione. È facile supporre che ci sia qualcuno che lo ha fatto venire nel nostro paese, lo ha collocato a quel semaforo e ne incamera ogni sera i guadagni. È probabile che il piccolo mendicante sia a tutti gli effetti un piccolo schiavo e che chi lo sfrutta non si fa scrupolo a mandarlo in giro mezzo nudo d'inverno e incappottato d'estate. Tanto sa benissimo che non è facile che la contraddizione si noti. Quel ragazzino non offre nulla, non promette né minaccia nulla, si limita a suscitare compassione esibendo il proprio disagio e quello del disagio altrui non è spettacolo che si ami contemplare. Gli automobilisti e i passanti preferiscono non guardarlo e se proprio devono si sforzano di dimenticarlo quanto prima. In effetti, se ogni tanto gli allungano 1000 lire, lo fanno per sentirsi autorizzati a non vederlo e a non pensarci più. E figuriamoci se stanno a fare dei paragoni tra come è vestito oggi e come lo era 4 mesi fa. Chissà che cosa pensa di noi il piccolo mendicante. Si renderà conto naturalmente di essere finito in una regione, in una città ricca, anche se la ricchezza non vi è distribuita con particolare equità e a lui in particolare è concesso raccoglierne soltanto le briciole. Ma è più difficile che s'accorga di vivere in un paese retto da un governo che afferma di credere nella solidarietà e nello sviluppo sociale. Un governo di sinistra, anzi. Anzi, come mi sembra abbia scritto il Times, e se lo ha scritto il Times sarà senz'altro vero, il governo più a sinistra dell'intera Europa occidentale. Lui di quel governo sa soltanto che non può contare sui suoi funzionari per farsi proteggere da quanti lo sfruttano. Se provasse a ribellarsi, a fuggire e a chiedere aiuto, il meglio che gli potrebbe capitare sarebbe quello di venire rinchiuso in qualche comunità con la prospettiva di essere presto o tardi rimpatriato e riconsegnato a chi lo ha già venduto una volta. Noi naturalmente siamo meglio informati di lui, sappiamo che il nostro governo di sinistra di lui e dei suoi simili si occupa moltissimo e sappiamo che presidia le coste e i confini affinché non ne arrivino altri, che organizza strutture in cui rinchiudere in attesa di rimandarli indietro quanti riescono comunque ad arrivare, che manda i suoi ministri e le sue ministre a trattare con i governi dei loro paesi affinché siano loro a tenerli in patria con le buone o con le cattive e che offre a tal fine la collaborazione delle nostre efficienti forze di polizia. Sappiamo che non si preoccupa di accoglienza e di integrazione perché evidentemente ritiene che il nostro paese non abbia bisogno di accogliere e integrare nessuno e che da fuori dai confini non possano venire che complicazioni. Non si rende conto che una società invecchiata e non proprio tanto dinamica come si dice ha un gran bisogno di forze nuove e che accogliere i ragazzini in particolare dovrebbe essere considerato un prezioso investimento per il futuro. Un futuro in cui il rapporto tra la fortezza assediata dei paesi ricchi e la moltitudine degli esclusi sarà sempre più il problema dominante, quello sulle cui proposte di soluzione si misurerà il livello di solidarietà e di sviluppo sociale di ogni comunità e quindi anche la possibilità di definire di sinistra il suo governo. Probabilmente non è il caso di chiedere di pensare al futuro a un governo nato con l'appoggio determinante di chi ha come unico progetto quello di restaurare il passato.